classici spari alla poesia classica per Edgar Allan Poe, Teofilo Follengo, Christian Morgenstern, e dedicato alla Metà America di Caramuel. Podiceps cristatus, Podiceps tata. Nigricolis, tata. Ardea cinerea, tata. Cinius olor, tata. Branta penicula, tata. Anser, tata. Anser, tata. Buteo, buteo, tata. Falco, tata. Tiniculus, tata. Perdix, tata. Perdix, tata. Fulica, tata. Atras, Vanellius, tata. Vanellius, tata. Arenaria, tata. Interpres, tata. Pluvialis, tata. Apricaria, tata. Numenius, tata. Arcuata, tata. Limosa, tata. Limosa, tata. Ringa, tata. Totonus, Larus, tata. Argentatus, Larus, tata. Canus, tata. Larus, Fuscus, tata. Columba, Palumbus, tata. Columba, tata. Oenas, tata. Pica, Pica, tata. Corvus, tata. Corone, tata. Corvus, Monedula, tata. Turdus, tata. Merula, tata. Parus, Maior, tata. Passer, tata. Domesticus, tata. Passer, Montanus, tata. Podiceps, tata. Cristatus, Podiceps, Nigricolis, Ardea, tata. Cinerea, tata. Cinius, tata. Olor, tata. Branta, Pernicula, tata. Anser, tata. Anser, Tadomia, Tadom, tata. Buteo, tata. Buteo, tata. Falco, tata. Tiniculus, tata. Fasianus, tata. Colchicus, tata. Perdix, tata. Perdix, tata. Balicula, tata. Chiropus, tata. Fulicula, Atras, Vanellius, tata. Vanellius, Pluvialis, Agricaria, tata. Numenius, Arcuata, tata. Limosa, tata. Limosa, tata. Tringa, tata. Totanus, tata. Caldris, Maritima, tata. Larus, Argentatus, tata. Larus, Ridibundus, tata. Tata. Tata. Tata. Tata. Tata. Columba, Decato, Fumus, Fugaris, Pica, Pica, tata. Corvus, Corone, tata. Corvus, Monedula, tata. Turdus, Merla, Parrus, Maior, Masser, tata. Domesticus, tata. Passer, Montanus, Parrus, Maior, tata. Podiceps, Cristatus, Podiceps, Nigricolis, Ardea, Cinerea, Cinius, Olor, Galicula, Chiropus, Fulicula, Atra, Vanellius, Vanellius, Pluvialis, Apricaria, Numenius, Arcuata, Limosa, Limosa, Tringa, Totonus, Larus, Argentatus, Larus, Ridibundus, Larus, Canus, Larus, Fuscus, Columba, Palumbus, Columba, Oenas, Pica, Pica, Corvus, Corone, Corvus, Monetula, Turdus, Merula, Parus, Maior, Passer, Domesticus, Passer, Montanus, Podiceps, Nigricolis, Ardea, Cinerea, Cinius, Olor, Anser, Anser, Anser, Anastrepola, Anascreca, Tadomia, Tadoma, Amenius, Menius, Buteo, Buteo, Perdix, Perdix, Galicula, Chiropus, Fulica, Atra, Vanellius, Vanellius, Pluvialis, Apricaria, Vanellus, Vanellus, Arenaria, Interpres, Numenius, Arcuata, Limosa, Limosa, Tringa, Totonus, Larus, Argentatus, Larus, Ridibundus, Larus, Canus, Larus, Fuscus, Columba, Onas, Pica, Pica, Corvus, Corone, Corvus, Monedula, Turdus, Merula, Perus, Maior, Passer, Domenicus, Nevermore, Nevermore, Nevermore, Nevermore.